Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ragazzi, buonasera, io dietro ai microfoni c'ho due persone importanti. Manuel e Stefano. Curiosi di sapere della radio del confessionale, del convento. Esatto. Che cos'è secondo voi, ragazzi? È un mistero. Allora, no, io sono la grande sorella in realtà e vorrei più o meno sapere se ci sono scoop. Sullo sposo. Ma guarda, io ti dirò. Sullo che... sposo della serata. Allora, il sposo è timido. Come è combinato? No, ma sta bene. Bene. Si sta divertendo. Sì, è scappato quando siamo arrivati qui. Come è scappato? È scappato, non voleva entrare, è sparito. Perché non voleva entrare? Non lo so. Noi volevamo farlo parlare, magari poteva dirci lui direttamente quello che insomma stava combinando. È timido. Quindi stasera non ha approcciato con nessuno perché è timido. No, ma va assolutamente. Però voi si scommetto. No. È la comitiva seria, timida. Siamo quelli seri. Hai detto bene, noi siamo quelli seri. Siamo quasi sposati. Quasi sposati. Quindi. Non tutti, ma quasi tutti. Ti sposerai. Prima o poi ti sposerai. E tu invece sei sposata? No, non ancora. Ecco, ma voi cosa pensate sul matrimonio invece? Parliamo di cose serie. Sì, parliamo di cose serie. Cosa vuoi sapere? No, parlate voi. Io sono molto sul matrimonio? Sul matrimonio. Non so, io sono tanti anni che convivo, però sto bene così. Non cambia niente, il matrimonio senza. Sono solo soldi che uno spende. Quindi secondo voi sposarsi o non sposarsi è la stessa cosa, insomma? Non è che è la stessa cosa, però diciamo che se già convivi e già conosci una persona, il matrimonio è solo un anello, è tutta una celebrazione per chi ci crede. Però diciamolo, è un po' mettere quella ciliegina sulla torta. Cioè andare sì, sicuramente, è bello. Ma certo, no? Sicuramente. Beh, secondo me è giusto dare ancora valore a queste cose, nel senso non lasciarle andare, non sminuirle e non conviviamo e basta. Cioè secondo me... consacrare tutti non c'è con però sai qual è il problema? Che quando convivi con una persona prima di questo grande passo, perché comunque è un grande passo il matrimonio, diciamo che convivendo conosci bene la persona e non fai l'errore che fanno tutti che si sposano senza conoscersi bene e poi si divorcia, c'è il divorzio. Ma oggi c'è molta leggerezza anche. Dobbiamo cioè oramai adesso è facile sposarsi, vedi tutti che si sposano e neanche un anno si separano, non va bene. Partiamo dalle basi, allora. Bisogna dare importanza al matrimonio. Ecco, abbiamo capito che è impegnato, tu sei impegnata? Sì. Purtroppo convivi? Sì. Addirittura purtroppo convivo. Purtroppo. Allora... No, ragazzi, dico purtroppo perché quando si sta da soli per me è una cosa si stupenda. Si sta da quindi Dio. Anche tu non io sei pro matrimonio. Ancora no, per il momento. Concordo. Cioè, quindi sono per io quanto potrebbe essere bello avere una persona e tutto, però quando si sta da soli si sta da Dio. E poi dipende da persona a persona. Ci sono persone. Tu sei da solo? Convivo. Vedi? Convivo. Vuoi dire che si sta bene da soli o convivere? Allora, è vero, si sta bene da soli, però secondo me ci sono determinate cose che se trovi la persona giusta, ma sicuramente arricchire, secondo me, quella parte di vita, cioè nel senso, da soli per l'amore di Dio, è vero, cioè non hai vincoli, non hai niente, stai bene, sei libero, puoi andare dove vuoi te, fare quello che vuoi te senza dover rendere conto a nessuno, siamo d'accordo, però se trovi quella persona giusta, che magari ti può arricchire quei momenti. Certo, cioè, che cavolo, condivide le tue stesse passioni. Esatto. Devi trovare la persona giusta. Certo. Ecco perché poi non è facile. Assolutamente secondo no. Secondo me dico che quando trovi la persona giusta dovresti poi coronare il tutto con dire sposiamoci. Certo, ecco, perché però convivi anche tu, perché non ti sposi? Ma sta facendo la morale a noi quando poi lui non è sposato e convive. Così facciamo un altro di celibato. Esatto, io voglio sposare, ma è ancora presto, cioè sto aspettando i step dopo step. Se vuoi fare il classico step non c'è la convivenza, c'è direttamente il matrimonio, caro. È giovane. Siamo nel 2022, c'è giovane lui. Quanti anni mi dai? Lui secondo me 25-26 anni. Brava, 26. Hai visto? E io invece? Tu il più grande, minimo, non so minimo dire. 50 mi viene d'oggi. No, dai. Ma quanti? 35, 36. Ci ho proprio preso. 36. Wow, sono bravo. Mente, ce n'ha. Oh, tenda 42, sta mentendo. Gli è andata bene. Perché di solito me ne dà sempre molto. Io adesso datemi a metà, dai. Allora, tu ci avrai 28 anni. No, sì. Me ne va. Fuori. Secondo me, secondo me 24. 25 ci sei andato vicino. Hai visto? Dai. Perché sembri più, più grande. Più grande dell'età che hai. Sì, tutti lo dicono. Una questione di maturità, purtroppo. Sto scherzando. Va bene, ragazzi. I vostri amici mi sa che vi stanno quasi salutando. Sono scomparsi fuori. Non li vedo. Ma guardate, ci facciamo giusto per un selfie, un selfie, vai, dai, ragazzi, dai, un selfie. Ci sta. Un selfie in diretta. Cazzo, va bene. Certo. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Grazie e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Al tuo matrimonio. No, al suo matrimonio. No, al tuo. Prima il tuo e poi il mio. Ma il mio ci incontriamo qui. Così ne facciamo due. Dovete fare prima voi, venite qui e ci incontriamo di nuovo. Al dai. Prossimo al 10 di Bato, allora al prossimo dia nominato. Vi aspetto qui. Ma non mettiamo la musica qui. Lui pensa che io da qui metto la musica. È un vostro amico. Ma chi? No. Va bene. Secondo me sono disgraziato. Mi dispiace. Devi andare lì, tesoro. Se vuoi mettere la musica, hai sbagliato. Ma tu devi far finta di mettere qualcosa sul computer. Ma va. Però penso che abbia comunque capito perché è andato via. Sì, quindi. Sì. Perché io sono molto espressiva. Si capisce. Bene. Va bene, ragazzi. Grazie. Buona serata. Ciao, grazie a voi. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Ciao.